Pepito tiene il broncio, lo sapete perché? Pepita l'ha respinto, non ne vuole sapere. La bella signorita non si lascia baciar, ma il buon Pepito alla sua porta va a bussare. Oh, oh, oh, oh, Pepita del mio cuor, ai Pepita, Pepita de Mallorca, aprimi la porta, aprimi la porta, ai Pepita, Pepita de Mallorca, aprimi la porta e lasciati baciar. Ai Pepita, Pepita de Mallorca, aprimi la porta, aprimi la porta, ai Pepita, Pepita de Mallorca, aprimi la porta e lasciati baciar. Pepita invece ha chiuso con la porta anche il cuor, è inutile picchiare, non c'è niente da far. Davanti a quella porta sempre chiusa, lui sta pestando i piedi disperato a supplicar. Oh, oh, oh, oh Pepita del mio cuor. Pepita de Mallorca, aprimi la porta, aprimi la porta, ai Pepita, Pepita de Mallorca, aprimi la porta e lasciati baciar. Ai Pepita, Pepita de Mallorca, aprimi la porta, aprimi la porta, ai Pepita, Pepita de Mallorca, aprimi la porta e lasciati baciar, aprimi la porta e lasciati baciar.